Alla peste risponde l'ordine. La sua funzione è di risolvere tutte le confusioni. Quella della malattia che si trasmette quando i corpi si mescolano. Quella del male che si moltiplica quando la paura e la morte cancellano gli interdetti. Esso prescrive a ciascuno il suo posto, a ciascuno il suo corpo, a ciascuno la sua malattia e la sua morte, per effetto di un potere onnipresente e onnisciente che si suddivide lui stesso in modo regolare e ininterrotto fino alla determinazione finale dell'individuo. Contro la peste che è miscuglio, la disciplina fa valere il suo potere che è di analisi. Ci fu intorno alla peste tutta una finzione letteraria di festa, le leggi sospese, gli interdetti tolti, la frenesia del tempo che passa, i corpi che si allacciano irrispettosamente, gli individui che si smascherano, lasciando apparire una tutt'altra verità. Ma ci fu anche un sogno politico della peste, che era esattamente l'inverso. Non la festa collettiva, ma le divisioni rigorose. Non le leggi trasgredite, ma la penetrazione, fin dentro i più sottili dettagli dell'esistenza, del regolamento. E intermediario era una gerarchia completa, garante del funzionamento capillare del potere. Non le maschere messe tolte, ma l'assegnazione a ciascuno del suo vero nome, del suo vero posto, del suo vero corpo, della sua vera malattia. La peste come forma, insieme reale e immaginaria del disordine, ha come correlativo medico e politico la disciplina. Dietro i dispositivi disciplinari si legge l'ossessione dei contagi, delle rivolte, dei crimini, delle diserzioni, delle persone che appaiono e scompaiono, vivono e muoiono nel disordine. La città appestata, tutta percorsa da gerarchie, sorveglianze, controlli, scritturazioni, la città immobilizzata nel funzionamento di un potere estensivo che preme in modo distinto su tutti i corpi individuali, è l'utopia della città perfettamente governata. Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. È per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti. Non ci sarà più una zona rossa, ci sarà l'Italia, zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Abbiamo e comprendiamo la voglia di socialità anche dei giovani, dove la movida, c'è molto divertimento dei locali e dei bar. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio e tutelare così la salute di tutti i cittadini. Stai ascoltando Radio Virus.

Attenzione, quello che sto per dirti è molto importante per il tuo corpo, per la tua testa, per la tua anima. Lo spazio in cui ti trovi è uno spazio liberato. Prenditi cura di questo luogo, ti prenderai cura di te stesso, di te stessa. Perché tu sei parte di questo luogo, perché tu sei anche ciò che ti circonda. Sii gentile, questo è un macho free zone. Il razzismo, il sessismo e ogni forma di fascismo non abitano qui. E se sei testimone di atti di violenza non starà a guardare. Prenditi cura di te e di chi ti sta intorno. Grazie all'acqua di mare delle Cinque Terre. Sì, sì, prova con l'acqua di mare. Trata e protegge le mucose. Accia! Preso! Sai quante mani è passato prima di arrivare qui? Lo lavi, ma acqua e prodotti che non disinfettano non bastano a eliminare i batteri. Famiglia protetta. Può avere effetti indesiderati anche gravi. Ti senti solo? Hai appena spento l'ultimo TG? Non avere paura. C'è nessuno! Ascolta Radio Virus! I need somebody! We'll be right back.

serviranno a molto gli interventi delle banche centrali o degli altri organismi finanziari. Per la prima volta la crisi non proviene da fattori finanziari, ma proviene dal corpo. È il corpo che ha deciso di abbassare il ritmo. La smobilitazione generale da virus è un sintomo della stagnazione ancora prima di esserne una causa. Intendo che è complessivamente la funzione biologica, il corpo fisico ad ammalarsi, ma anche e soprattutto la mente, che entra in una fase di passivizzazione profonda. Stanca di elaborare segnali troppo complessi, depressa dopo l'eccessiva sovreccitazione, umiliata dall'impotenza delle sue decisioni di fronte all'onnipotenza dell'automa tecno-finanziario, la mente ha abbassato la tensione. Non che la mente abbia deciso qualcosa, è l'improvviso abbassarsi della tensione che decide per tutti. La chiameremo psicodeflazione.